in primo piano. Allora, io do l'apertura del Sole 24 Ore, che è il tema economico del giorno. L'azienda Italia è ripartita, Marcegaglia, la vera sfida è riprogettare il futuro per crescere. Ci sono poi i dati del Centro Studi Confindustria, che vedremo analizzati, sulla disoccupazione, sugli consumi, sulla ripresa, appunto. Cito questo perché per il resto è praticamente unanime l'apertura sulla vicenda processuale di Alberto Stasi. Carlasco, la soluzione di Alberto, è il Corriere della Sera, delitto di Carlasco, assolto Stasi, ma un po' tutti così, insomma, Carlasco assolto Alberto, il Quotidiano Nazionale mette la foto assolto, Stasi assolto, incubo finito per il Messaggero. Vabbè, ci sono Giornale Libero che, come di consueto, quando è venerdì commentano la puntata di Anno Zero del giovedì, ormai è un po' un refrain. La RAI fa gli auguri alla mafia, così il Giornale. Anno Zero scandaloso. Da Santoro, buon Natale a chi odia Berlusconi. È Libero, perché ha fatto gli auguri anche a Spatuzza. A meno leggo, ieri non l'ho visto Anno Zero. Parliamo appunto del delitto di Carlasco, che l'apertura lo faccio prendendo in mano Libero, perché Libero, contrariamente insomma a tutti gli altri giornali che fanno analisi, la cronaca, cosa è successo, Libero invece cosa fa? Libero è l'unico giornale a intervistare Alberto Stasi. Lo fa Cristiana Lodi. Stasi si confessa a Libero. Ho paura che non sia finita. È una vittoria? Non è la vittoria di nessuno. Certo, per me significa allontanare un incubo, ma non lo è perché Chiara non c'è più. E non so nemmeno se un giorno lei potrà avere giustizia. Qui non ci sono vinti e vincitori, c'è Chiara uccisa e ci sono io innocente. Davvero crede non sia finita? Non potrei pensare altrimenti. Il pubblico ministero aveva già detto che avrebbe impugnato in caso di assoluzione. Sono sempre stato convinto che la verità avrebbe trionfato. L'ho pensato anche quando mi hanno portato in prigione 2 anni fa. E poi, insomma, il tema: perché lei non si è mai mostrato in pubblico? Stiamo parlando di una tragedia, dice Alberto Stasi. Chiara è morta, non avrebbe avuto alcun senso andare in TV e parlare di lei. E tantomeno da me, che non ero creduto da nessuno. È una cosa che non ho mai capito, questa. Io ho cercato subito di collaborare con gli inquirenti. E poi ribadisce: sono andato da Chiara, lei non mi rispondeva al telefono, sono entrato, l'ho trovata morta. Le rimprovano anche la freddezza con la quale ha chiamato al 118. Ero semplicemente terrorizzato e sconvolto per quello che avevo visto. E poi ancora si è fatto un'idea di chi può essere stato a questo punto. I miei difensori già dalla prima arringa avevano spiegato che forse potevano esserci degli spunti sui quali compiere approfondimenti, ma a questo punto non si può più affermare niente. Insomma, questo è Alberto Stasi, mentre interessante anche sulla Stampa, esce ora che c'è stata la soluzione, quel pasticciaccio di Carlasco, davvero una summa di tutte le sviste più clamorose che secondo Claudio Bressani in questa pagina di cronaca sarebbero successe fin dal primo giorno, ma davvero a leggerle e metterle insieme è una roba incredibile. L'inchiesta è partita col piede sbagliato. Sentite qua cosa scrive Claudio Bressani. Innanzitutto, vabbè, affidata a un giovane PM, Rosa Muscio, inesperto. Questo poi è un giudizio, insomma, bisognerà vedere. La gestione della scena del crimine, imbarazzante. Almeno 25 persone sono entrate subito. Nessuno, tranne il personale del 118, indossava i calzari. C'è chi ha realizzato addirittura immagini ricordo con una macchinetta digitale personale. Chi camminando avanti e indietro è scivolato sul sangue, poi si è pulito le scarpe sullo zerbino. Chi ha fatto i suoi bisogni in bagno. Chi ha avuto un conato di vomito di fronte alla scena raccapricciante. Nella villetta, insomma, un caos. E ancora, Alberto sottoposto a 3 interrogatori per 20 ore. Dalle sue parole emergono diversi elementi di incoerenza, ma il PM lascia passare una settimana prima di decidersi a indagarlo e dunque perquisire l'abitazione, che peraltro è esaminata senza il luminol, cioè quell'apparecchio che mostra eventuali tracce di ematiche, di sangue. L'officina di autoricambi del padre non verrà mai perquisita. Solo 40 giorni dopo il delitto, i carabinieri notano una sirena all'esterno, scoprono dunque che c'è un sistema d'allarme, ma è troppo tardi. Tiene in memoria solo 120 e i dati relativi al 13 agosto sono cancellati per sempre. Nessuno chiede ai gestori telefonici il traffico email e chat dei due ragazzi. Quando lo faranno? Sono passati 2 anni e per legge i dati possono essere conservati solo per 1 anno. E poi gli accertamenti sul computer, acquisito la mattina del 14 agosto, viene aperto, rovistato dai carabinieri senza rispettare le procedure. Poi le scarpe. E poi l'ora della morte, che viene prima messa in 1 ora, poi spostata. Insomma, un'inchiesta che, se bisogna dar credito a quello che scrive Claudio Bersani sulla Stampa, un disastro dal primo all'ultimo giorno. Ma trovate molto su Garlasco, come trovate moltissimo anche sulla politica, e voglio quindi cambiare pagina. È uscito Berlusconi, c'è questa foto incerottato che lascia il San Raffaele, che dice: dolore non inutile se facilitare il dialogo. Si scopre che l'aggressore Tartaglia era andato a cercarlo un paio di volte alla sede del Milan, dicendo: ho un appuntamento col presidente che deve sbloccarmi la mia carta di credito. Insomma, lì la segretaria aveva già capito che c'era qualcosa che non andava. E ci sono le interviste sul clima politico. C'è Rosy Bindi che sul Corriere della Sera a Maria Teresa Meli dice: sul Premier sono stata imprudente. Accetto l'invito alla prudenza, ma è paradossale che mi si attacchi per il titolo di un'intervista. Si ignorano invece le innumerevoli espressioni di solidarietà e la condanna del gesto violento. Dice Rosy Bindi poi: nelle mie preghiere mi ricordo di tutti, anche di Berlusconi. C'è chi dice, la linea del giornale, meglio non fidarsi troppo della tregua, perché è una tregua lanciata in qualche modo da Berlusconi, cioè: se cambia il clima il mio dolore non è inutile. Allora, dopo le parole dell'odio, adesso si capisce se il clima politico possa un po' virare verso, insomma, una riappacificazione, insomma un abbassare i toni, come hanno detto tutti. Anche se, a giudicare da quello che si legge su alcuni giornali, davvero c'è poco da stare allegri. Allora, questo è anche il tema del nostro sondaggio, e Giampaolo Pansa torna a ribadirlo in un'intervista al Quotidiano Nazionale. L'Italia è messa peggio degli anni 70. Mai visto un clima così. Il nostro sondaggio è questo. Che ne pensate? C'è il rischio, secondo voi, che ritornino quegli anni? Giampaolo Pansa da giorni dice non solo di sì, dice che è peggio anche di allora. Perché, dice, negli anni 70-80 c'erano 3 grandi partiti, PC, DC e PSI, che erano la salvaguardia di mamma Italia. La politica era molto forte, oggi invece no. E poi, nella società che succede? Succede che fanno un attentato a Berlusconi, perché così va definito l'episodio, e su Facebook si registrano 70.000 adesioni di attacchi e insulti contro il Premier. Succedeva anche negli anni 70, oggi è peggio, dice Pansa. C'è un'Italia spaccata in due, con una parte che odia visceralmente Berlusconi, e questo clima si estende a macchia d'olio contro il PDL e i suoi elettori. C'è da dire che ha fatto anche molto discutere quello che ha detto il presidente del Senato Schifani, poi lo sentiremo alle 8.30, proprio a dire c'è molta violenza, e proprio riferito agli anni 70 ha fatto questo paragone con Facebook. Avete sentito anche il nostro Gianluca Nicoletti, no, parlarne in GR24, cioè: queste aggregazioni stile Facebook non c'erano negli anni 70, dunque la situazione è anche ben più grave. La posizione diversa è quella di un ex magistrato di Mani Pulite, Gherardo Colombo, che oggi è presidente della Garzanti, e che in un'intervista a Maurizio Bono su Repubblica dice: no, mi trovo molto a disagio a costruire simmetrie con il passato. Per gli anni delle stragi c'è la possibilità di sapere come si è arrivati a Piazza Fontana, si sa come settori deviati delle istituzioni hanno ostacolato le indagini, ma fare paralleli è davvero difficile. Chi invece parla proprio di questo tema è Ernesto Galli della Loggia. In prima pagina sul Corriere della Sera l'editoriale è dal titolo 2 o 3 cose di buonsenso. Quali sono quelle di buonsenso da fare, secondo Galli della Loggia? Primo, evitare che lo scontro si polarizzi ossessivamente intorno alle persone, ai nomi, ai cognomi, alle facce. E dice: è sotto gli occhi di tutti la penosa incapacità della RAI di assicurare un'informazione sobria ed equilibrata, degna di un paese civile, scrive Galli della Loggia. Ma un discorso come quello dell'onorevole Cicchitto, avventuratosi sulla sempre insidiosissima strada dei mandanti morali, dei complici oggettivi, della lista nominativa dei cattivi da additare alla pubblica riprovazione, è forse fatto per spezzare la spirale dell'aggressività, dei pericoli di violenza o viceversa per alimentarla? Che si possa pensare che senza Marco Travaglio ci sarebbe molto buio sulla storia italiana che si sta facendo in questi anni, come ha scritto Barbara Spinelli sul Fatto, ci sembra solo ridicolo. Ma ugualmente ridicolo, oltre che lesivo della libertà di stampa, è considerare il suddetto Travaglio una sorta di Lucifero della carta stampata, capace di chissà quali devastazioni. La seconda misura d'emergenza, secondo Galli della Loggia, è evitare la pigrizia intellettuale. La storia non si ripete mai due volte. Sarebbe bene che anche i giornali evitassero di scrivere il medesimo articolo scritto qualche anno o qualche decennio fa. Ecco qui il riferimento agli anni 70. La bomba della Bocconi ha subito scatenato l'attualizzazione degli anni 70, la voluttà del già noto e del già detto. Ecco così riaffacciarsi puntualmente da un lato la minaccia del terrorismo rosso, del risveglio sovversivo, il fantasma dell'attacco alle istituzioni, le strane coincidenze, la sigla misteriosa, la rivendicazione ambigua. Ma, scrive in conclusione della Loggia, non sarebbe consigliabile fermarsi un attimo, cercare di farsi contagiare da un minimo di ragionevolezza? La ragionevolezza che nei toni almeno non c'è, come detto, da una parte sul Giornale, dall'altra sul Fatto, che titola «Il giornale ci accusa di mettere le bombe». Paolo Flores d'Arcais nell'editoriale parla, accusa il vice Feltri, Alessandro Sallusti, vice direttore del Giornale, che dice è arrivato all'ignominia di definire fan di Santoro e Travaglio gli autori dell'attentato alla Bocconi. Quando, scrive Flores d'Arcais, con la sua certezza, questa sigla che ha messo la bomba, il FAI, puzza di servizi deviati lontano un miglio, secondo la quasi unanime opinione degli esperti del ramo in tutti questi anni. Vabbè. Toni bassi, ma anche no. In primo piano. E allora, sul Sole 24 Ore, l'azienda Italia è ripartita. Leggo a pagina 3, la ripresa c'è, ma la crisi non è superata del tutto. Sono sostanzialmente ieri i conti del Centro Studi Confindustria. La presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, ha annunciato un piano articolato che verrà presentato a gennaio alle forze politiche, alle parti sociali. Il tema è quello dell'innovazione, la ricerca, il capitale umano, l'efficienza dello Stato, insomma i cardini per la ripresa del paese, della produttività del paese. La ripresa c'è, ora serve il progetto. Nicoletta Picchio racconta appunto come insomma i segnali di miglioramento ci siano, occorre però restare con i piedi per terra senza abbassare la guardia nei confronti della crisi, anche perché nell'articolo a fianco a firma di Rossella Bocciarelli ci sono appunto l'analisi di quello che ha detto il Centro Studi Confindustria. 4 anni per tornare ai ritmi di crescita pre-crisi. Sostanzialmente la fase peggiore della crisi è alle spalle, resterà agli atti con quella secca flessione del PIL pari almeno 4-7% quest'anno. L'anno prossimo la ripresa in corso si tradurrà in un aumento del prodotto dell'1,1%. Cos'è che preoccupa però? A preoccupare gli industriali è il ritmo modesto della ripresa, al di sotto di quello dei partner internazionali. Basti sapere che ci vorranno ben 8 anni perché le imprese ritrovino il livello della produzione perduta e ben 4 perché l'Italia torni a incrementi del PIL in linea con quello pre-crisi, dove invece in Germania si impiegheranno 2 anni e mezzo, in Spagna 3 anni e mezzo e anche il Giappone, che è più lento, rientrerà in 3 anni e 9 mesi, mentre la Francia già nella seconda metà del 2011 avrà compensato pienamente le perdite accumulate. Dunque non è tanto il segnale di ripresa quanto il ritmo di ripresa che è più lento in Italia. Ci sono poi i dati sicuramente che ancora preoccupano sull'occupazione. Sale la disoccupazione, persi 508.000 posti di lavoro. Non si ferma l'emorragia di posti di lavoro, scrive Davide Colombo. Questi sono appunto i dati. A settembre l'occupazione ha registrato ancora un forte calo, meno 2,2%, sostanzialmente appunto 508.000 posti di lavoro bruciati su base annua, facendo segnare l'arretramento più acuto dal 92, l'anno di inizio delle serie storiche dell'Istat, tanto che sia l'Unità che il Manifesto mettono in prima pagina questa notizia. E intanto in Italia, scrive l'Unità, 500.000 disoccupati in più, diseguaglianze di reddito, siamo 6 in classifica OCSE. L'elenco insomma di quelle che sono le situazioni più difficili di fabbriche, le crisi anche di artigiani, delle piccole imprese, quella che è la situazione, insomma, difficile di occupazione anche per il Manifesto in prima pagina. Il titolo è "Senza scudo", si gioca anche sul tema dello scudo fiscale che tra poco vedremo. Senza scudo sarebbero quelli che hanno perso il posto di lavoro. Italia, lavoratori a precipizio. E proprio lo scudo fiscale, come detto, è l'altro tema economico che trovate sul Sole 24 Ore. È arrivata dunque la decisione di prorogare, come era stato anticipato dal quotidiano economico e è ormai sancito. Scudo proroga in due tappe. Che succede? Lo spiega Isabella Bufacchi a pagina 5. Lo scudo fiscale accorciato a 3 soli mesi contro i 7 inizialmente annunciati è stato riaperto ieri ed esteso di 4 mesi. Funzionerà così: 2 tappe aggiuntive, 2 nuove sanzioni. Una riapertura scatta dal 1 gennaio fino al 28 febbraio 2010 con aliquota al 6% delle ricchezze rimpatriate o regolarizzate. La seconda proroga invece è scadenzata dal 1 marzo al 30 aprile con aliquota al 7%. C'è anche un'intervista, devo dire abbastanza critica, a Enrico Letta del Partito Democratico, fatta da Lina Palmerini, che parla proprio soprattutto di riforme di economia e di scudo fiscale. Dice Enrico Letta: non posso fare a meno di pensare che la stima di 80-100 miliardi derivanti dallo scudo sia una sottrazione di risorse alla collettività. Vuol dire che in Italia l'Italia è stata privata di entrate fiscali per almeno 35 miliardi. Non capisco come si possa essere soddisfatti di un dato così amaro. E ancora sulla posizione di Confindustria: capisco la posizione di Emma Marcegaglia, che dice è un male necessario per capitalizzare le imprese, ma chiedo un passo in più, ossia la certezza che questi soldi abbiano un biglietto di sola andata e non anche di ritorno. E sullo scudo quater, dice Letta, si continua con la logica dell'una tantum per tamponare tagli già fatti e senza puntare alla crescita. Critico dunque Enrico Letta, mentre è invece favorevole il sottosegretario all'economia Daniele Molgora, intervistato da Dino Pesole. Sono alle segnalazioni finali. Vi segnalo che c'è una polemica sul prefetto di Venezia, che è stato spostato dal ministro Maroni. Secondo Repubblica, ma anche secondo il Corriere, la denuncia del sindaco di Venezia, soprattutto Cacciari, è stato spostato perché disubbidì alla Lega su una rimozione di un campo di nomadi sinti. Sui Rom disubbidì alla Lega, rimosso il prefetto di Venezia. Cacciari dice una vendetta politica. La critica a Maroni arriva anche da Galan, presidente della Regione Veneto, che magari, insomma, visto che non è stato riconfermato, avrà anche un po' il dente avvelenato. Cacciari e Galan: vendetta politica contro il prefetto Michele Lepri di Gallerano, spostato perché appunto si era rifiutato, secondo loro, di ubbidire alla rimozione di un campo nomadi sinti voluta dal ministro dell'interno. L'ultima segnalazione è riguardo Milingo. Milingo fuori dalla chiesa, il vescovo ribelle torna laico. La trovate un po' su tutti i giornali, ma analizzata meglio dal Messaggero. Il Papa irritato dall'ordinazione illegittima dei sacerdoti e dunque è stato spretato, come si dice volgarmente, Monsignor Milingo. È la prima volta per un vescovo. Ci fermiamo, votate il sondaggio sul sito e poi ci sentiamo dopo GR24.